niente. Un'ora prima di vista settimanale chiamata Famiglia Cristiana. Rivista settimanale vuol dire che esce ogni settimana. Ma spesso solo il nostro ti sciopende te. Al castello ma non vuole farsi prendere te. Marijuana al 13 luglio non è pezzo di te. Yeah.